известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I want to tell you the latest. We've just spoken to a spokesman from the Italian Civil Protection Authority, which is the agency that handles all of the rescue efforts and coordinates them. He has told us, as you are seeing, hundreds of buildings have been damaged and many of those have collapsed. And he says they believe there are still people under the rubble. They are staying away from any official numbers of victims at this time, as you can imagine, because often in these situations that number increases throughout the day. The Prime Minister... Questa è la voce di Delia Gallagher, la giornalista, una delle inviate del CNN, che sta coprendo in questo momento il terremoto in Abruzzo per conto della grande testata, della più grande testata di TV giornalistica del mondo. Bisogna dire che con una rapidità apprezzabile, con un grande impegno, una grande serietà e un grande rispetto, tutto il mondo mediatico si è messo molto rapidamente in moto attorno alla nostra sciagura. I servizi sono tanti, sono spesso con delle angolazioni diverse da quelle delle nostre televisioni, il che potrebbe essere anche un argomento di discussione, di ragionamento. E soprattutto l'Italia è tristemente su tutte le prime pagine, su tutte le home page. La tragedia italiana viene trattata come l'argomento principale e centrale di questa strana giornata. Il mondo finalmente guarda l'Italia, non per il Papa, non per le gaffe vere o presunte di Berlusconi, non guarda l'Italia per il caso di Amanda Knox, che sembrava nelle ultime settimane, se non negli ultimi mesi, l'unica cosa che poteva interessare, attrarre per esempio i media americani nei nostri confronti. Invece ora c'è una mobilitazione e una attenzione assoluta. Su Sky News, per esempio, il canale di All News britannico, è appena andato un lungo servizio animato anche da un certo, non direi stupore, ma curiosità attorno a questo forse prematuro dibattito, no, sulla prevedibilità dei terremoti, che in qualche modo sta prendendo le mosse nell'ambiente dei media italiani, forse addirittura delle istituzioni, ma che coglie in un certo senso un po' di sorpresa l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori d'oltreoceano e di oltre Manica. CNN presenta, tra l'altro anche questo è un versante interessante del discorso, presenta l'Aquila come una college city, no? Noi non siamo abituati a ragionare in termini di college town, college city, città universitarie. Per loro è invece un modo molto semplice di spiegare quale sia lo spirito, l'anima di una città. Perugia, l'Aquila sono college city, città che vivono non soprattutto, ma con grande dinamismo attorno all'attività accademica, alle migliaia di studenti che popolano la città. C'è anche molta impressione, direi quasi una devozione nei confronti dello sforzo immediato dei cittadini che si stanno dando da fare, anche hanno cominciato da subito, no? With bare hands, scrivono for survival, scavando a mani nude in cerca di sopravvissute, non appena alle 3:32 il terremoto ha colpito la zona dell'Aquila. Tra l'altro, uno dei protagonisti abituali, se non il protagonista più abituale di questo programma, ovvero il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ha aperto oggi la sua conferenza stampa ad Ankara con il presidente turco Abdullah Gül, inviando la solidarietà alle vittime dei terremoti in Italia. Desideriamo porgere le nostre condoglianze alle famiglie italiane colpite dal terremoto. Ci auguriamo che l'invio dei mezzi di soccorso riesca a minimizzare i danni per le vittime, ha detto Barack Obama. A questo proposito, tra l'altro, i nostri ascoltatori più abituali sanno che giorno per giorno noi così mettiamo in orbita, attraverso l'invio di una mail agli iscritti della pagina Jefferson 2, la nostra pagina di Facebook, mandiamo una mail proponendo un tema legato agli argomenti di estrema attualità, per permettere a tutti loro di dire la propria. Abbiamo sospeso il discorso che avevamo avviato stanotte, quando più o meno ci mettiamo a fare questo tipo di operazioni. Volevamo discutere del missile coreano e della strana storia che lo circonda. È un discorso che potremo fare nelle prossime ore. Comunque, se andate sulla nostra pagina di Facebook, vi chiediamo un parere un po' connesso a quello che appunto ha detto Barack Obama sulla questione degli aiuti, e anche a quello che il ministro Maroni ha detto sulla questione degli aiuti, ovvero che l'Italia è attrezzata, l'Italia sta reagendo in modo immediato. Ho ricevuto la solidarietà da ogni regione italiana, ecco le parole, il virgolettato di Maroni. Sono stato in contatto con i ministri dell'interno europei, che hanno offerto la loro disponibilità per l'invio di mezzi di soccorso. Per il momento non ce n'è bisogno, perché la macchina dei soccorsi è scattata e funziona a pieno regime, lo ha affermato Roberto Maroni incontrando i cronisti, spiegando la situazione nel capoluogo abruzzese dopo il terremoto. Noi abbiamo messo questa dichiarazione sul sito di Facebook, ma non certo, e sia ben chiaro, per avviare una polemica, ma per invitarvi invece a ragionare sulla valutazione e sul comportamento, sulla reattività delle istituzioni, sul modo e sui modi di comunicare che vengono utilizzati, e sui cambiamenti, no? Perché purtroppo non è la prima volta che capita una cosa del genere in Italia, come si parla, come si dicono le cose, come vengono presentate a paragone con come vengono presentate altrove, perché non solo l'Italia ha sciagure di questo genere, pensiamo a tanti tragici episodi che tutti i giorni, no, attraversano le nostre cronache internazionali. Katrina, uno per tutti, no? la proverbiale reattività americana in quel giorno tragico venne a mancare clamorosamente, gli aiuti vennero tardivamente ma poi intensamente, come dire, accettati. E allora ragionare, no, attorno a orgoglio e pregiudizi, se mi passate l'espressione, su questo tema. Ma adesso diamo un momento la linea al traffico, con particolare approfondimento naturalmente attorno alla situazione del traffico attorno e verso e dentro l'Abruzzo, e poi torniamo come sempre a Jefferson. These pictures on Italian television show piles of rubble that were once homes and buildings in L'Aquila, a medieval town in central Italy. Many of those that remain standing are severely damaged and unstable. These structures, some centuries old, were not built to withstand a 6.3 magnitude earthquake. Survivors and rescue workers are scrambling over what remains of them, trying to find those trapped beneath. Men, women, and children are among those already known to have lost their lives. The earth began to tremble around 3:30 Monday morning as most in the town slept. It was just a really big shake. It sounds as if a 747 was actually coming in to land. You can feel the entire building swaying back and forth. Questa è la voce di un testimone americano, uno dei numerosi stranieri che vivono all'Aquila. Ha usato per spiegare ai suoi connazionali, che hanno visto questo altro servizio di CNN, in cui già il giornalista Phil Black si affannava a spiegare che cosa possa essere una città dove il centro è costituito di edifici addirittura dell'undicesimo, dodicesimo secolo. Non è facile spiegare a uno spettatore, a un telespettatore americano, che ne so, del Midwest, che ci possano essere delle grandi città, dei grandi agglomerati urbani il cui centro risale a 1000 anni fa, Emiliano, o a qualcosa di meno. Bisogna, come dire, scendere in particolari, rivolgendosi a un audience che ha 200-300 anni di storia. E poi intervista un suo ospite, un residente temporaneo all'Aquila, un americano, un missionario americano che si chiama Joshua Brothers, nome tra l'altro straordinario, fratello Brothers, comunque nome e cognome, che a sua volta, per spiegare ai suoi connazionali che cos'è stato questo terremoto, ha usato un esempio molto americano, ha detto è stato come se un 747 747 non ti fosse entrato dentro casa, e siccome che cos'è un 747 lo purtroppo sappiamo anche noi, poi insomma come dire, altri linguaggi, ma l'effetto non manca. C'è tutto un mondo. Io sveglio alle 3:32 per lo scuotimento del letto nella mia casa di Roma, dopo 5 minuti, quelli tentati davanti alla televisione, poi ho acceso internet e mi sono accorto in prima persona, con tutto comunque l'ansia collaterale, come i tempi di reazione in questa occasione siano stati straordinari dal punto di vista della comunicazione spontanea. I famosi social network a questo punto sappiamo anche a cos'altro servono, oltre no, che a sentirsi meno soli o magari a trovare una ragazza o a fare strane esperienze. Dopo 3-4 minuti le pagine di Facebook, Twitter e tutte queste altre facezze, spesso anche molto così, prese in giro in un certo senso, hanno cominciato letteralmente a crepitare notizie spontanee e spesso notizie molto da vicino, laddove sarebbero arrivati molte ore dopo naturalmente i media ufficiali o solo qualche cronista locale avrebbe cominciato a dire qualcosa. Il mondo di internet in questo, con tutta la sua approssimazione, con tutto il suo personalismo, con tutto il suo slancio un po' così, però di fatto ha raccontato da subito. I primi messaggi avevano come orario 3:36, 3:37, si muove la casa, insomma è piuttosto impressionante questa faccenda, e per come poi dopo, in un certo senso, in un'occasione così tragica, anche molti nostri media ufficiali si siano rivolti a Milano, abbiano guardato al mondo dei hanno cercato dei testimoni sul posto, mandateci foto, mandateci piccoli clip, audio o video, i vostri film. Anche Radio 24 sta proseguendo tutta la giornata con il numero verde per raccogliere. Molto interessante, nelle trasformazioni, nel continuo trasformarsi la comunicazione, tutto ciò è interessante, e siamo andati a caccia di oggetti del genere, addirittura su base internazionale, vero Damiano? Esatto, perché abbiamo trovato una discussione naturalmente molto accesa, partecipata, commossa sul New York Times. Addirittura, per esempio, c'è Allison da Roma che ha postato un suo messaggio dicendo: sono stata svegliata naturalmente per il movimento, lo scuotimento del letto, per più secondi, erano circa le 3:30 del mattino, mi trovavo qui a Roma, sono uscita con ho preso il mio cane, sono uscita con lui e con il mio iPhone fuori di casa, e poi ho verificato con l'iPhone che l'epicentro era lontano da Roma, quindi si è sentita in qualche modo sicura. Poi c'è Alessandro che scrive anche lui da Roma e dice: stanotte ero spaventatissimo, mi sono svegliato alle 3:30, fu davvero forte, io abito al quarto piano, ho sentito scuotere il palazzo, e a quel punto ero indeciso tra due ipotesi: se l'epicentro, visto che Roma non è, dice, abituata ad avere scosse di terremoto, se fosse una scossa lieve ma molto vicina, oppure una scossa molto forte e lontana, questa è la seconda ipotesi. Addirittura dalla Francia c'è Caroline che addirittura la mette su un piano globale, mondiale, dice: siamo di fronte ad una continua catastrofe globale, raccoglie alcuni episodi successi negli ultimi giorni, come per esempio i 50 gradi raggiunti a Melbourne, oppure il fiume rosso che ha raggiunto che è 8 metri più alto del suo livello normale. Dice: bisogna fare qualcosa, trovare delle soluzioni immediate, altrimenti ci troviamo di fronte a tante situazioni come New Orleans, e quindi si ritorna al terribile uragano Katrina. Tra l'altro segnaliamo che su Facebook è nato istantaneamente anche un gruppo intitolato Aiutiamo l'Abruzzo, dove naturalmente con tutta la circospezione necessaria, il rispetto delle professionalità e quant'altro, comunque gli iscritti si scambiano informazioni utili, come numeri di telefono per le emergenze, riferimenti per donare il sangue, segnalazioni per organizzare il virgolettato dice aiuti concreti per la popolazione sfollata. Poi questo sarà il grande tema del giorno dopo. Noi per per amore o per forza, come dire, per professione, siamo andati poi molto presto con la memoria, i ricordi e anche questi 2 anni e mezzo di vita di questa trasmissione a ripercorrere, che era un anno fa, Emiliano, cos'era? Era il 12 maggio dell'anno scorso, quindi 11 quindi mesi fa. Siamo vicini all'anniversario. Qualcosa di enorme, di ben più grave, ben più tragico, che è capitato in Cina, che soprattutto in quel momento, in particolare in quel momento, era un focus della nostra trasmissione legata alle notizie, no? Tre mesi prima delle Olimpiadi. Esatto, nel mondo, e al Sichuan, all'evento di quel terremoto che colpì così duramente la nazione, che invece era tutta proiettata verso un evento diplomatico di presentazione della propria nuova versione del XXI secolo al mondo. Abbiamo pensato oggi di cercare un bravo giornalista, si chiama Beniamino Natale, che ascoltate spesso dai nostri microfoni, corrispondente dell'ANSA dalla Cina. Il 12 maggio stava lì, fece una serie di servizi, andò sul luogo del disastro, ci è tornato periodicamente e oggi ha rievocato alcune di quelle scene per noi. Il terremoto integrale, tutto completamente distrutto, tutto completamente crollato, e quest'area di una botta improvvisa, fortissima, di questa vita rimasta a metà, non so come dire, le macchine sospese sugli abissi, cioè, è una zona di buddisti, e quindi ci sono sai, questi grossi archi che sono di fronte a tutti i templi buddisti, che era tutto storto, come questo senso di una forza misteriosa, fortissima, violenta, che colpisce in modo assolutamente senza pietà, non so nemmeno spiegarlo bene, cioè, ma non sono mai stato così colpito da una cosa come da quella visione. Si scendeva da questa stradina e man mano che ci avvicinavamo con altri colleghi pensavamo sempre di essere stati nel posto peggiore, perché non si andava in nessun altro modo se non a piedi, e quindi camminando, diciamo, peggio di così siamo arrivati, no, 100 metri più avanti era ancora peggio, e così via per tutta la giornata. Queste erano descrizioni, come dire, estremamente efficaci. Parla uno che ha fatto diverse guerre, certo. Corrispondente dall'India, insomma, ne ha viste di cotte e di crude, Beniamino Natale. Questo giornalista dell'ANSA che ha seguito il terremoto del Sichuan, per fortuna i quadri, le descrizioni che arrivano dall'area dell'Aquila non sono così devastanti, così tragiche, ma di fatto anche il mestiere di reporter, nelle sue varie interpretazioni, no? Anche quella contrapposizione che facevamo in apertura, quei modi così formali, descrittivi e anche a un certo punto pragmatici di raccontare quello che è successo, che usano i giornalisti inglesi, americani, parlando, camminando tra le macerie, insomma, uno stile diverso, comunque una notizia che in questo momento sta coinvolgendo, afferrando tutto il mondo. Ci sono delle risposte su Facebook al tema che avevamo... Sì, abbiamo naturalmente dirottato sul terremoto la nostra conversazione su Facebook, vi abbiamo chiesto di commentare una frase di Maroni che dice: sono in contatto con i ministri dell'interno europei che hanno offerto la loro disponibilità per l'invio di mezzi di soccorso, per il momento però non ce n'è bisogno perché la macchina dei soccorsi è scattata e funziona pieno. Quindi vi abbiamo chiesto di commentare le parole di Maroni. C'è per esempio Alexander che dice: gli aiuti vanno sempre accettati. Silvano la pensa in modo opposto, dice: è inutile accettare bastoni fin tanto che si riesce a stare in piedi sulle proprie gambe. E poi c'è una riflessione più ampia di Dario che dice: la nostra protezione civile è purtroppo molto sperimentata ed ha raggiunto un'ottima efficienza. L'afflusso degli aiuti deve essere coordinato, altrimenti si creano intoppi. Eccoci di nuovo in studio Radio 24 Jefferson. Sono così diverse, variegate le reazioni, l'adesione a quello che è accaduto e sta accadendo. Messaggi curiosi arrivano anche per esempio via SMS. C'è un ascoltatore che ha appena scritto: sono in autostrada direzione nord e vi assicuro che ogni tipo di mezzo di soccorso sta andando a sud. Si chiama Gianni, no? È una, così un piccolo spaccato come tutto un po' si partecipa, c'è anche chi sgrida, no? Per esempio, ma c'è bisogno di scrivere sui forum di Facebook che la terra balla? Io ne approfitto per girare la domanda e coinvolgere in questo argomento Vittorio Sabatini, il vice direttore della Stampa, che avete già ascoltato altre volte qui a Jefferson in trasmissione, soprattutto in relazione a un libro che ha scritto per Donzelli che si chiama L'ultima copia del New York Times, il futuro dei giornali di carta, il fosco, aggiungo io, il futuro dei giornali di carta, che ci è venuto a trovare. Buon pomeriggio Vittorio. Buon pomeriggio a tutti. Discutevamo proprio di questo argomento pochi istanti fa. Ecco, tu per esempio come interpreti, prendi, ricevi, con quale atteggiamento questa effettiva mutazione che da una parte porta agli scenari di crisi che hai descritto nel tuo libro, e dall'altra questo ricambio carico di interrogativi di una nuova comunicazione che non si sa bene come collocare, maneggiare, sospetti, però anche forze, energie, certezze diverse, è una strada percorribile secondo te? È di là che si va? Porterà con sé cambiamenti reali? Ma non c'è dubbio, è una realtà già in atto. Una volta, quando accadevano fatti come il terremoto di questa notte, la gente che non sapeva bene che cosa era accaduto telefonava ai centralini dei giornali. Certo. Oggi invece manda email, scrive messaggi su Twitter, si informa in tutt'altro modo. Ormai le cose, nel momento in cui accadono, viaggiano per canali diversi. I giornali dovranno prenderne atto, dovranno compiere una trasformazione nei prossimi mesi e nei prossimi anni che li porterà ad essere qualcosa di diverso da quello che conosciamo, che abbiamo conosciuto finora. Che anche questa richiesta, no, di televisioni e giornali a lettori o ascoltatori o telespettatori, mandateci voi le cose, sta diventando una specie di passaggio obbligato. Non c'è dubbio, il citizen journalism è un fenomeno in atto ed è un fenomeno che sarà sempre più importante, per una ragione molto semplice. È vero che i giornalisti hanno una maggiore professionalità e la loro professione trattare le notizie e diffonderle al pubblico, ma è anche vero che i cittadini comuni sono dappertutto e quindi qualunque cosa accada può avere di fronte a sé un testimone che oggi è in grado di registrarla e di trasmetterla con semplici apparecchi che costano sempre meno e che ognuno di noi tiene in tasca, come un telefonino o come altri strumenti che possono registrare suoni, immagini, voci, le possono trasmettere a qualcun altro. Ecco, tu tra l'altro hai un ruolo direttivo, decisionale nella cucina di un grande giornale, questa Italia, no, come dire, quasi invisibile per il mondo, se non per diciamo il Papa, diciamo in apertura, le gaffe o più o meno di Berlusconi, qualche spunto su Amanda Knox e poi periodicamente, speriamo il più raramente possibile, per le tragedie, e allora diventa l'Italia il paese antico, no? Ridiventa una cartolina. Come, ecco, professionalmente come recepisci il trattamento che i media riservano al nostro paese in queste occasioni? C'è rispetto, ma c'è anche forse, no, una certa immobilità, no? Sì, c'è rispetto. Io ho passato l'anno scorso, sono stato corrispondente da Londra, quindi sempre per la Stampa, e quindi ho avuto la possibilità di vedere come, diciamo, un paese come la Gran Bretagna considera l'Italia, ed effettivamente c'è un po' da mettersi le mani nei capelli, perché non hanno una grande opinione di noi, pensano che siamo un paese, non dico marginale, ma sicuramente un paese che ha perso molti treni, che ha perso competitività, e quindi un paese che viene visto più per le sue stranezze, più per le sue bizzarrie, che non per le cose concrete che pur tuttavia in Italia ci sono. Certamente in questo momento l'Italia, anche da un punto di vista internazionale, lo abbiamo visto anche un po' al G20, in questi vertici che ci sono stati in questi giorni, non ha proprio un posto centrale. Tra poco, nell'ultima parte del programma, facciamo magari due chiacchiere, un commento attorno alle notizie internazionali che sono comunque in divenire con l'ultimo passaggio di questo piuttosto avventuroso viaggio in Europa e dintorni di Barack Obama. Però vorrei da te invece, prima di dare di nuovo le notizie del traffico, un commento attorno a questo atteggiamento che mi sembra esposto da parte delle istituzioni italiane nelle ultimissime ore, in coincidenza con questa sciagura, di un'Italia adulta, di un'Italia cresciuta, di un'Italia ormai capace di esprimersi in situazioni di estrema difficoltà come questo, su quelli che sono gli standard della modernità, diciamo così, no? Quindi un primo ministro, un ministro dell'interno che educatamente dice grazie ma tutto sta funzionando, non è l'Italia del grido di disperazione qualche anno fa, è un cambiamento. So che tu tra l'altro hai avuto un'esperienza personale in Belice, quindi hai toccato con mano l'Italia del panico, no? Del panico dentro, non so come dire. C'è stata una crescita, è una crescita reale, una crescita d'immagine? Sì, beh, io ho avuto un'esperienza nel Belice come volontario ai tempi di quel terremoto e ricordo appunto di aver sentito due o tre scosse dell'epoca che onestamente sono esperienze che è difficile dimenticare, quindi comprendo insomma lo stato d'animo di tutti quelli che questa notte sono stati al centro di questo sisma. Sicuramente da allora la situazione è un po' è nettamente migliorata. Quello forse era un paese che più si piangeva addosso, questo certo. È un paese che reagisce, è un paese che purtroppo ha già sperimentato molte tragedie di questo tipo e quindi ha fatto tristemente un grande allenamento nella preparazione dei soccorsi in casi di questo tipo. Secondo me, insomma, la cosa migliore in casi come questi, e lo vediamo anche sulla base delle esperienze degli Stati Uniti e di altri paesi che sono molto efficienti da questo punto di vista, è che le decisioni vengano prese a livello centrale, che non ci sia questo stillicidio di competenze fra prefetti, sindaci, questori e quant'altro, ma che ci sia una sola persona a decidere. Mi stupiva ad esempio ascoltando questa mattina proprio alla radio le prime reazioni, era che si diceva che occorreva istituire un numero di telefono di emergenza, si davano i vari numeri ancora ai quali telefonare. Negli Stati Uniti c'è un numero solo, il 911, che si chiama per qualunque cosa. Buon poi è l'operatore del 911 che decide in che modo intervenire, con quali forze, se con la polizia o piuttosto che con un'ambulanza. Forse anche noi dovremmo adottare un sistema di questo tipo. Questo dibattito strisciante che si è attivato quasi subito, che poi sembra dipinto di qualcosa che sta tra lo scientifico e il miracolistico, no? Attorno alla prevedibilità del terremoto, che è diventata da subito quasi una questione comunque essenziale, in un certo senso sembra come una strada destinata a essere percorsa nel commento di queste notizie. Cosa sì, insomma, l'abitudine italiana che ancora non abbiamo perso è di trovare il colpevole, cioè certo. Di dare la colpa a qualcuno. Certo. Se lo sciame sismico fosse un modo per evitare i terremoti e se quando si avvertono sciami sismici bisognasse evacuare le città o le case, la California dovrebbe essere un deserto, certo. Perché in California c'è uno sciame sismico al giorno da certo. Tempo, e quindi insomma purtroppo i terremoti sono eventi che è molto difficile prevedere e contro i quali c'è poco da fare. Parlavo prima del Belice, il mio ricordo di allora è di avere percepito una forza devastante della natura contro la quale l'uomo veramente non può fare nulla. C'è un bel libro di Mike Davis, un sociologo californiano, che dice proprio a proposito della California, o sono tutti pazzi perché vivono su una faglia, o forse l'essere umano è fatto così e bisogna rifletterci almeno una seconda volta. Tra l'altro esce un'agenzia che il Ministero Russo delle Situazioni di Emergenza è pronto a inviare in Italia i suoi specialisti per assistere il paese negli sforzi per superare le conseguenze del terremoto, quindi alcune attività di collaborazione, di empatia in questo senso si stanno muovendo. Io vorrei ascoltare ancora un altro spezzone della conversazione che Emiliano ha fatto con Beniamino Natale attorno al terremoto del Sichuan in Cina, un argomento che tanto a lungo abbiamo trattato perché gli ha raccontato anche appunto l'aftermath, no? Come dicono gli inglesi, quello dopo, quando le notizie scivolano via dalla prima pagina, ma tante cose invece sono ancora in piedi, e qual è il quadro della situazione più o meno oggi? La maggior parte della gente sta ancora in sistemazioni di fortuna, per quanto decenti, ed è cominciata la vera e propria ricostruzione, e ci sono alcuni punti non ben chiari di che cosa succederà con le zone. Ci sta un gruppo di villaggi, quelli più vicini all'epicentro, che sono stati completamente resi al suolo, sono difficilmente ricostruibili, quindi sicuramente la gente non tornerà lì, e ci sta addirittura l'idea di fare una sorta di museo del terremoto, che significa lasciare le cose come stanno e cercare di attirare un po' di, non so come dire, di turisti caritatevoli che visitando queste zone aiutino un po' economicamente la popolazione. Insomma, generalmente diciamo la situazione non è brutta, insomma certo è difficile, ma la ricostruzione procede, Ci sono delle difficoltà, delle polemiche che riguardano soprattutto la storia delle scuole. Esatto, perché il governo di Pechino non ha ancora detto il numero preciso, l'elenco preciso dei bambini che sono morti nel crollo delle scuole. Ancora non è stata data una cifra e naturalmente questa cifra è alta, questa cifra semmai verrà data, ma comunque non è inferiore ai 10.000, da quello che io posso dire avendo parlato con varie, non solo vittime del terremoto, ma le persone delle NGO che sono sia cinesi che straniere, che in qualche modo sono stati presenti per tutto questo tempo. E naturalmente questo comporta un grosso problema, soprattutto per il governo locale, il problema di come sono state costruite queste scuole, perché sono così fragili, perché sono venute giù come il burro, come dicevano le scuole di tofu, era un po' lo slogan e questa cosa continua, continuano le proteste dei genitori, delle vittime, di questi bambini dispersi, che chiedono almeno che venga fatto un elenco completo e chiedono che vengano puniti i responsabili di questa speculazione terribile che è stata fatta e che ha avuto queste conseguenze tragiche. Well, this is the scene of one of the buildings that's collapsed here right in the center of L'Aquila. As you can see, they're scrambling to remove the rubble and the rocks and the masonry from this building. This... Ecco un esempio di giornalismo televisivo puro stile BBC. L'Aquila non impareranno mai, no, a dirlo, ma a parte quello, però invece c'è una capacità di rappresentare, descrivere e in un certo senso circoscrivere anche l'evento e lo scenario che lo circonda, che è apprezzabile, che è diverso certamente dal nostro giornalismo, anche per quello che si esprime in casi come questo. Ma io vorrei approfittare degli ultimi minuti che ci restano con Vittorio Sabbadini, vice direttore della Stampa, oggi nostro ospite in studio, comunque per riprendere a guardare al mondo come mandato e occupazione di questa trasmissione non dico tentare un resumé, perché mi sembra abbastanza complesso, della visita di Obama in Europa, delle diverse tappe, ma però leggerti per esempio un titolo di Newsweek, più o meno ignorando lo scappellotto, diciamo, ovvero sottotitolo: come i leader mondiali hanno perso il treno a Londra. E l'attacco dice: lo sguardo sulle facce dei leader mondiali, e a corredo c'è una foto, quella famose, Berlusconi e compagni, dice tutto questo sguardo, ovvero il messaggio sarebbe: grazie a Dio ne siamo usciti senza fare un disastro completo. E questo è una lettura, come dire, tutt'altro che entusiasta dei fatti andati in scena tra G20 e successivi appuntamenti da parte di Newsweek. Oggi, un po' a mettere il pepe su questa visione delle cose, ci sono anche le notizie in arrivo da Ankara, dove certo non è che appaia questa armonia e questa empatia nei punti di vista delle principali nazioni europee e di Barack Obama, ad esempio attorno alla questione della Turchia. Allora Vittorio, se tu provi un, non dico un consuntivo, ma un'osservazione così a margine di questa settimana di Obama in Europa, cosa diciamo? Ma è difficile dire se ci sono vincitori o perdenti in questa serie di incontri che i leader del mondo hanno avuto. Sicuramente abbiamo visto che è continuata la campagna elettorale di Obama, cioè la campagna elettorale di Obama che lo ha portato alla presidenza non è ancora finita, sta continuando nei rapporti con gli altri stati. Abbiamo visto Obama all'opera al G20 e poi al vertice della NATO, essenzialmente impegnato non tanto a far valere i punti di vista degli Stati Uniti, come la richiesta di un nuovo stimolo fiscale o l'invio di truppe combattenti in Afghanistan, che come abbiamo visto sono state richieste che l'Europa ha respinto, ma più impegnato a intrecciare rapporti, a creare nuovi legami, a rinsaldare delle amicizie che si erano perse. L'incontro con Zapatero da questo punto di vista è stato significativo, perché è stato il recupero di un leader europeo che aveva rotto completamente con l'amministrazione Bush e che invece Obama ha voluto riconquistare. Quindi da una parte Obama ha centrato almeno una parte dei suoi obiettivi obiettivi, che erano quelli appunto essenzialmente diplomatici, di creare dei solidi legami di collaborazione. Se io devo indicare un vincitore di questo, di questa serie di incontri, direi che forse è quello che ha fatto meno rumore, che non è mai comparso in fotografia e che non ha convocato una sola conferenza stampa, e cioè il presidente cinese Hu Jintao, perché la Cina è riuscita in questo vertice, pur appunto come dicevo senza far rumore, a far valere il proprio ruolo, ad aumentare il proprio ruolo all'interno delle istituzioni internazionali. Ha detto con chiarezza a Obama che Cina e Stati Uniti sono nella stessa barca e devono remare insieme, e quindi le soluzioni ai problemi dei due paesi vanno cercate insieme, e ha ottenuto quasi tutti gli scopi che si era prefisso con questo vertice, che ha invece sottolineato una nuova frattura fra Europa e Stati Uniti che non c'era ai tempi di Bush, o che perlomeno non era così vistosa. Abbiamo visto un vertice NATO in cui per la prima volta non sono stati gli Stati Uniti a dettare l'agenda, ma è stato il nuovo asse franco-tedesco formato da Sarkozy e dalla Merkel, e abbiamo visto la stessa cosa appunto anche per quanto riguarda la Turchia, con l'invito di Obama a farla entrare nella UE, e invece sembra passi questo passaggio in Turchia rivolto all'Islam. Mi sembra che lì poi stia il messaggio essenziale, in un certo senso i forti segnali nei confronti della Turchia collimano con la frase che ha detto Barack Obama al Parlamento turco: lasciatemi essere il più chiaro possibile, gli Stati Uniti non sono oggi e mai saranno in guerra con l'Islam, anzi la nostra partnership con il mondo islamico è cruciale per far arretrare delle ideologie estremiste rifiutate dai popoli di ogni fede. Quindi cominciamo con la Turchia e poi vediamo come vanno le cose, ma è una dichiarazione intente che forse ha fatto correre qualche brivido sulle schiene dei governanti. Non c'è dubbio, forse ha fatto correre qualche brivido anche nelle schiene dei governanti di Israele, che vedono insomma il ruolo degli Stati Uniti un po' diverso da quello che è stato finora per quanto riguarda l'appoggio alle politiche israeliane in Medio Oriente. E il discorso di Bush in Turchia è stato la seconda fase dopo il video inviato all'Iran, che aveva rappresentato diciamo il primo ponte dell'amministrazione americana verso l'Islam. E dopo aver ascoltato questo discorso di oggi si capisce anche per quale ragione Obama ci tenga tanto a fare in modo che la Turchia entri nell'Unione Europea, perché è un modo per avvicinarla all'Occidente, è un modo per creare uno spartiacque netto fra l'integralismo islamico e le nazioni invece islamiche moderate, e quindi dal suo punto di vista è fondamentale che la Turchia entri nella UE. È altrettanto chiara la preoccupazione di Sarkozy, della Merkel e di altri governanti europei, che temono, dopo l'ingresso della Turchia nella UE, un'invasione di turchi alle frontiere. Insomma, sono due punti di vista entrambi legittimi, quello di Obama forse guarda un po' più lontano. Dunque, abbiamo Nanti Fox che sta mandando da Roma un servizio, il nastro sotto, si chiede quanto sia vulnerabile l'Europa ai terremoti, e ecco di nuovo uno sguardo, come dire, molto da lontano e forse poco connesso in un certo senso con la realtà dell'Europa, che di tanto in tanto, forse troppo raramente, l'America prova a raccontare, a indagare. Io ringrazio della visita Vittorio Sabbadin, il vice direttore della stampa. Vi ricordo il titolo del suo libro, di grande interesse e di grande attualità per come ci passiamo dentro tutti noi che facciamo questo mestiere, e tante persone che sono nati, cresciuti e vorrebbero continuare a vivere leggendo giornali, ad esempio. Si intitola L'ultima copia del New York Times, il futuro dei giornali di carta, edito da Donzelli, su quale torneremo a parlare presto, se sei d'accordo, Vittorio. Molto volentieri. Grazie. Va bene, mandiamo la sigla. Jefferson 2, l'arte della svolta di oggi. Sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantadori, la mail jefferson2@radio24.it, Facebook redazione Jefferson 2 oppure Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself. Torniamo domani alle 4, siamo comunque in replica stanotte a mezzanotte. Continuano naturalmente gli aggiornamenti sui fatti d'Abruzzo qui su Radio 24, restate sintonizzati.